America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And as a global leader in advancing food security, the United States feels we have to seize this opportunity to be involved in the 2015 World Expo in a significant way. And that is why earlier this year President Obama announced that we're putting together an outstanding USA pavilion. John Kerry, lo ricorderete, qualche tempo fa, grande cerimonia al Dipartimento di Stato, posa della prima pietra a Milano per il padiglione americano. Ecco, Expo 2015, vi avevo anticipato che ne avremmo parlato nel corso di questo avvicinamento e ne parliamo oggi. Perché? Beh, anche perché la settimana prossima al NIAF, gran parte dell'evento NIAF, National Italian American Foundation, ci sarà l'evento annuale il 25 di ottobre, e gran parte di questo evento sarà dedicato proprio a Expo 2015. Si sta cercando di mobilitare l'America un po' dappertutto, in questo caso di mobilitare gli italo-americani, ma lo sforzo è a tutti i livelli. Da una parte abbiamo visto al Dipartimento di Stato, dall'altra anche sul piano cittadino. Pensate che a Italy l'inarrestabile Oscar Farinetti, che abbiamo avuto più volte qui ai microfoni di America 24, ha fatto venire due guglie del Duomo di Milano, perché c'è questa idea di finanziare diciamo un po' di restauro del Duomo, in questo caso mettendo delle targhette con dei nomi a chi fa delle donazioni, e ha portato qui due guglie, ma due guglie originali del Duomo. E dunque non so i milanesi come si troveranno quando vanno e dicono: ma dove sono le guglie? E allora io ho con me ai microfoni di America 24 il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e giro a lei la domanda. Sindaco Pisapia, ma buongiorno intanto. Un saluto a tutte e a tutti. Ma insomma, queste due guglie che mancano e che sono a New York, la preoccupano o la rendono orgoglioso? Posso dire che quando mi ha chiamato Oscar Farinetti proponendomi quest'idea di inaugurare un piccolo museo del Duomo a New York per far conoscere Milano e in particolare il Duomo, dicendomi che avrebbe portato due guglie originali, ho pensato uno scherzo. Invece è vero, siamo qua con la veneranda fabbrica del Duomo e abbiamo inaugurato questo museo che sarà ed è già di grande richiamo per non solo la comunità italoamericana, ma per chi abita a New York, e soprattutto è un messaggio che direi un aperitivo rispetto ad Expo Milano 2015. Ecco, beh, io mi ricordo che Sant'Ambrose, quando fece uno dei suoi, fece ricostruì una piccola galleria, la Galleria di Milano, fatta. E qui però addirittura portiamo, lì era più un dipinto che altro, qui portiamo addirittura le guglie. Però l'obiettivo è quello di raccogliere fondi, perché insomma ne abbiamo tutti bisogno. Soprattutto credo che lei sia qui anche per portare un messaggio per Expo 2015. A che punto siamo? Siamo messi bene, chiaramente non nascondo le criticità, ma il numero di adesioni sono al di là di ogni aspettativa. I biglietti venduti sono già notevoli, hanno superato i 6 milioni di biglietti venduti. Soprattutto ci sarà una presenza di associazioni, di singole persone, di stati che potranno dibattere e confrontarsi sul modo di dare valore al nutrire il pianeta e soprattutto alle risposte ai bisogni delle persone. Ecco, come sindaco lei ha un'iniziativa Città di Milano, vuole raggruppare un certo numero di città che erano state raggruppate dal sindaco Bloomberg per parlare di ambiente. E lei dice: beh, ma perché non parliamo anche di questioni alimentari? Proprio per controllare alcuni di questi problemi. Lei ha incontrato il sindaco di Blasio. Intanto come è stato? Se l'aspettava molto alto, no? Molto alto, molto simpatico. Possiamo dire che New York è entrata a far parte di questo gruppo? Io ne ho parlato già con il sindaco Bloomberg, quando era sindaco Bloomberg. Ci siamo già scritti col sindaco di Blasio, che è entusiasta di questa iniziativa, e ci siamo incontrati e direi che abbiamo fatto un ulteriore passo avanti per arrivare a questo patto di sindaci delle grandi città per la lotta contro gli sprechi alimentari e soprattutto per la lotta per una sana alimentazione, che deve essere molto concreta, non dei grandi programmi, grandi progetti che poi non si realizzano. Ecco, vediamo un po' come la città di Milano, lei come sindaco di Milano, si pone nei confronti dell'Expo, perché dentro la città ci sono molte realtà agroalimentari, gastronomiche, che in qualche modo fanno parte dell'indotto, per esempio i mercati generali, per esempio Italy, che invece va direttamente al consumatore, e molte altre realtà. Ecco, come vede lei la situazione? I mercati generali partecipano a Expo, Farinetti so che partecipa, ci sono delle cose da cambiare? Partecipa Farinetti, partecipa Slow Food, partecipano soprattutto gli agricoltori. Milano è la seconda città agricola d'Italia, la Lombardia è la prima regione agricola d'Italia. C'è una grande attenzione da parte di chi vuole produrre e vuole vendere prodotto sano a costo anche minore, e su questo ci può essere una grande alleanza tra cittadini, agricoltori, operatori nel campo dell'alimentazione per raggiungere quegli obiettivi che servono veramente per il futuro della città e per il futuro del pianeta. Ecco, sindaco Pisapia, mi lasci essere un po' provocatorio, perché poi la città certo ha questa grande occasione Expo 2015, però Expo arriva e poi parte, ci sarà un grande impulso dell'economia, però è importante costruire delle cose che restino. Io ho visto qui a New York, ma anche in altre città americane, domina il made in New York, a Detroit made in Detroit. Ho raccontato ai nostri ascoltatori di questa ex fabbrica di Lucido da scarpe che si è inventata gli orologi made in Detroit. Il sindaco Bloomberg ha lanciato un'iniziativa molto importante, Made in New York High Tech, e quindi ha creato una lista di aziende che veramente producevano e costruivano soltanto a New York. Insomma, Milano, tutti lo diciamo, is the small apple, no? È la piccola mela. Lei ha pensato a un Made in Milano, a qualche cosa che possa ripercorrere un po' l'orgoglio della produzione cittadina, che non sia solo il panettone naturalmente? È il panettone, ma è soprattutto la moda, il design, ma quello che c'è di nuovo, che è l'obiettivo, che è già partito come esperienze concrete, è l'innovazione. L'innovazione che può non solo guardare al futuro, ma anche dare nuova occupazione. Su questo siamo già, diciamo, abbiamo fatto già dei passi avanti, e vorrei parlare di innovazione come Made in Milano, perché questa può essere veramente la prospettiva. Ecco, New York, lei è stato un giro in questi giorni. Che impressione le ha fatto, dovendo fare un confronto città-città? È stato anche fortunato, diciamolo, col tempo. È capitato quando c'è stata la quotazione in borsa di Fiat Chrysler. Ecco, ci dia un po' una sua impressione di questa città. No, ho trovato una città molto bella, molto avanzata, molto innovativa. Ecco, l'unica cosa che forse differenza un po' New York da Milano, che New York è innovativa, si vedono grandi grattacieli, grandi luoghi bellissimi, splendidi, grandi parchi, ma forse ha dimenticato un po' il suo passato. Ecco, a Milano noi cerchiamo di essere innovativi, ma non dimenticando e non buttando giù anche zone molto belle della vecchia Milano, che sono parte della storia della città. Su questo il giusto equilibrio credo che sia fondamentale. Restando su un tema alimentare che abbiamo accennato prima, la mela, la grande mela, la piccola mela, è un confronto che le piace o che la disturba? Sì, mi piace molto, poi bisogna vedere la grande mela, quale delle due città. Io direi che deve essere due mele che hanno colori diversi ma che hanno lo stesso obiettivo. Però è chiaro che Milano vede New York come punto di riferimento, e soprattutto, posso dire come una battuta, qualcosa in più che Milano non ha: il mare. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.